Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Esce lunedì 21 novembre il nuovo libro di Sandro Veronesi, Baci scagliati altrove, pubblicato da Fandango. Si tratta di una raccolta di racconti, come spiega lo stesso autore. Si tratta di una raccolta antologica, non tematica. Cioè io ho raccolto i migliori racconti, a mio giudizio, che ho scritto negli ultimi 20 anni. Ne ho scritti molti di più, però quelli che mi sembravano degni, diciamo, di essere letti sono questi 14. E ovviamente, siccome coprono un ventennio complessivamente come arco di tempo e sono stati scelti sulla base del mio gusto, insomma, non per tema ma per qualità, non è che hanno un argomento o due argomenti soltanto, in realtà sono una selezione e toccano molti temi, ecco, non ho una cosa da rispondere, ogni racconto praticamente è una storia a sé, anche se poi naturalmente volendo ci si possono ritrovare dei temi comuni anche ai romanzi che nel frattempo ho pubblicato, ma questo perché poi fondamentalmente uno scrittore c'ha quello spettro lì, non è che possa andare tanto fuori dai suoi limiti. In genere il racconto è un genere poco diffuso in Italia, è più diffuso nella scrittura anglosassone. Tu come la vedi, insomma, che rapporto hai con il racconto? Ma io invece ho un rapporto molto intenso, non tanto come scrittore di racconti, perché per esempio, appunto, per pubblicarne 14 ne ho dovuti scrivere 50 e solo 14 mi sembrano degni di essere letti, e quindi questo significa che, insomma, ancora non sono così all'altezza, diciamo, delle mie esigenze di lettore, però come lettore sono da sempre uno che frequenta il racconto, fin da ragazzino. I primi racconti propriamente detti che io abbia letto sono quelli di Edgar Allan Poe, che poi sono di fatto anche i primi racconti moderni che sono stati scritti. Però poi nel frattempo, appunto perché appassionato del genere, mi sono imbattuto in autori italiani e in libri italiani di racconti molto molto belli. Parlo di Moravia, naturalmente, parlo di Tozzi, parlo di Landolfi, ma parlo anche di Antonio De Benedetti, di Vincenzo Pardini, per parlare di autori contemporanei, insomma. E Fenoglio ha scritto un fenomenale di una raccolta fenomenale di racconti, insomma, per me non è affatto un genere minore, e bene fanno nel mondo anglosassone a parificarlo al romanzo. Da noi in Europa più che altro, non solo in Italia, invece è percepito come un genere minore, e per quanto posso fare io li posso leggere, scrivere, pubblicare come Fandango libri, di più non posso fare, insomma. Poi alla fine, se deve accadere che anche da noi avranno più seguito, bene, altrimenti, insomma, io avrò comunque fatto tutto quello che potevo. Che differenza c'è per uno scrittore fra scrivere appunto un romanzo e invece scrivere un racconto? Ma vede, il racconto è tendenzialmente e sostanzialmente breve, anche quando sono lunghi, insomma. Chekhov ha scritto dei racconti, sono chiamati racconti, ma sono lunghi 100 pagine, oggi sarebbero considerati romanzi, però comunque la brevità è una caratteristica, soprattutto nel confronto col romanzo, comune. Questo fa sì che un mito novecentesco, quello del controllo, che negli ultimi decenni, a mio parere, è completamente morto, nel racconto sopravvive, nel senso che un racconto può essere controllato completamente, proprio perché è un numero di parole limitato, e quindi ogni parola può essere controllata, mentre in un romanzo questo è proprio impossibile. Anzi, forse le cose migliori nei romanzi vengono fuori da sole, malgrado l'autore, si scrivono da sole. Cosa vuol dire però questo? Che a differenza di un romanzo, un racconto può essere perfetto, e se può esserlo, va a finire che deve esserlo, ed è per questo, per esempio, che io mi trovo più in difficoltà a scrivere racconti, perché non mi sembra mai di scrivere niente di perfetto, e se scrivo un romanzo e c'ha le sue imperfezioni, penso che anche i più grandi romanzi della storia hanno le loro imperfezioni. Se scrivo un racconto che ha le sue imperfezioni, invece so di essere andato distante dal bersaglio centrato dai miei autori preferiti, ecco. Il domenicale del Sole 24 Ore pubblicherà un tuo racconto. Di che racconto si tratta? Dunque, quello in realtà nasce come paragrafo di un romanzo, del mio secondo romanzo, che si chiama Gli Sferati, un paragrafo che aveva la funzione proprio di fare da contrappunto in una particolare situazione, che adesso non sto a spiegare. È proprio un momento di pausa e di distrazione, ed era lungo due pagine e mezzo. Una volta finito il romanzo, mi sono accorto che quella storia lì meritava un'attenzione maggiore, meritava un'espansione, per cui poi mi sono messo a scriverlo come racconto, non più come paragrafo di romanzo, ed è venuto di 10 pagine, non di 2, perché mi ero accorto che poteva venire un buon racconto, diciamo pure dell'orrore, ma di un orrore diciamo quotidiano, insomma, che riguarda, senza niente di soprannaturale, senza nient'altro che la comune scelleratezza che può avere un ragazzo, che può avere una donna, nel fare una cosa senza pensarci tanto su. E allora mi sono messo lì e ho cercato di sviluppare tutto il potenziale che nel romanzo non era stato sviluppato, perché la funzione che aveva era soltanto quella di interrompere una certa azione che poi continuava dopo. E questo era Sandro Veronesi, da lunedì in libreria con la raccolta di racconti Baci scagliati altrove. E troverete uno di questi racconti pubblicato in anteprima per il domenicale del Sole 24 Ore, domani in edicola. La prossima settimana, invece, sempre con il domenicale del Sole 24 Ore, ci sarà in allegato un racconto inedito di Andrea Vitali. E allora gli abbiamo chiesto perché ha deciso di scrivere questo racconto. Sentiamo Vitali. L'ho scritto perché mi intrigava un po' l'atmosfera, è un'atmosfera che fa capo ai miei anni più giovanili, in cui c'era quest'uomo che per come secondo lavoro, quasi come per hobby, costruiva appunto bare, e quindi ho voluto raccontare, costruire una cosa completamente inventata attorno alla figura di questo soggetto, e sono ben contento che poi il racconto riesca in allegato al vostro quotidiano. Andrea Vitali in genere ambienta tutti i suoi romanzi a Bellano, quindi anche questo racconto è ambientato lì? Rigorosamente sì, io ambiento tutto a Bellano per una ragione molto semplice, affettiva da una parte, ma anche di sicurezza geografica dall'altra. Siccome per me è fondamentale avere una geografia ben sicura dentro la quale calare le storie, uso questa, che è quella che conosco meglio nell'universo mondo, e facendo così di Bellano praticamente il vero e proprio protagonista seriale delle mie storie. Per uno scrittore, che differenza c'è fra scrivere un romanzo e scrivere invece un racconto? Che tipo di approccio alla scrittura si ha? Scrivere un racconto è più ansiogeno, nel senso che la misura del racconto, a parte che non credo che nessuno mai l'abbia misurato e possa poter dire un racconto deve essere lungo tot, è una misura che ciascuno ha nella sua testa, ed è un tipo di scrittura che richiede un'attenzione molto particolare, perché bisogna dire tanto in poco spazio, quindi essere ancora più attenti al numero di parole che uno utilizza, cercando di non perdere i vari passaggi narrativi, per cui devo dire che alla fine ti dà una soddisfazione particolare. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.